Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Oggi è la giornata mondiale contro il cancro, in linea con noi il dottor Giordano Beretta, presidente nazionale Associazione Italiana di Oncologia Medica e responsabile dell'oncologia medica all'Humanitas Gavazzeri di Bergamo. Dottor Beretta, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Dottor Beretta, il numero di nuovi casi è in aumento, ma nel nostro paese si registra un risultato importante, perché negli ultimi 10 anni i pazienti vivi dopo la diagnosi di tumore sono aumentate del 53%. Erano 2.250.000 nel 2010, oggi sono 3.460.000. Dottor Beretta, ci aiuta a commentare questi due dati? Allora, il problema fondamentale è che siamo riusciti ad ottenere dei miglioramenti dal punto di vista terapeutico che consentono sostanzialmente di avere un'esperienza maggiore, perché si riesce in alcuni casi a guarire, in altri casi a cronicizzare la malattia, quindi a dare tempi di sopravvivenza decisamente superiori a prima. L'aumento di incidenza in realtà è più una stabilizzazione del livello, nel senso che con l'aumentare dell'età della popolazione il rischio di contrarre un tumore è sicuramente maggiore, perché l'età è uno dei fattori di rischio. I dati che noi abbiamo sono molto favorevoli, perché la nostra sopravvivenza a 5 anni è mediamente superiore alla media europea. L'altro aspetto è che l'adesione a stili di vita, ma soprattutto l'adesione alle procedure di screening, porta ad avere un minor numero di casi per alcune patologie e un riconoscimento più precoce di altre, trovandoli quindi in momenti della malattia in cui è possibile puntare alla guarigione. Dottor Beretta, la patologia purtroppo è in costante crescita nel mondo per la diffusione di stili di vita scorretti, a cui si aggiungono naturalmente anche fattori ambientali, ma nella giornata di oggi si vuole sottolineare l'importanza che ognuno di noi ha nel contrastare la malattia. Ci sono due aspetti. Il soggetto non malato deve assolutamente assumere degli stili di vita adeguati che riducano in modo significativo il rischio di avere la patologia. Ovviamente non è possibile azzerare il rischio, ma dei corretti stili di vita, che sono l'astensione dal fumo, una dieta adeguata, un'attività fisica adeguata, il mantenimento del peso corporeo, possono consentire di ridurre al minimo quello che è il rischio. Per quanto riguarda il soggetto malato, gli stili di vita hanno comunque rilevanza, perché si sa che anche in questi pazienti il rischio di recidivo o di peggioramento della malattia è più elevato in chi usi dei comportamenti scorretti. In più esiste il problema dell'aderenza alle terapie. Le terapie che al momento riusciamo ad utilizzare ci consentono dei risultati importanti in alcune situazioni, ma necessitano assolutamente che ci sia un'aderenza terapeutica, cioè che il soggetto segua quelle che sono le prescrizioni. E il trattamento dal punto di vista dei clinici deve essere fatto in modo multidisciplinare, cioè integrando tutti i trattamenti disponibili. E prima di chiudere, un aggiornamento sulle mosse del coronavirus. In linea con noi la professoressa Maria Rita Gismondo, direttore della microbiologia dell'ospedale Sacco, Università di Milano, centro di riferimento per le bioemergenze nazionali. Buongiorno, grazie Nicoletta. Mi dà la possibilità finalmente di enunciare la prima buona notizia. Da 24 ore il virus non colpisce fuori dalla Cina. Non abbiamo nessuna nazione nuova coinvolta, nessun nuovo ammalato infetto oltre la Cina. Questo è veramente un dato positivo, incrociamo le dita, speriamo di confermarlo e di fare anche meglio. Grazie per oggi è tutto, la programmazione prosegue con Melog, io vi aspetto in diretta Facebook, parliamo insieme al dottor Cinieri di prevenzione, stile di vita sane per ridurre il rischio di tumore.